almeno da 4 anni sostengo ad alta voce il fatto che mio fratello sia stato eliminato proprio perché si è messo di traverso rispetto a questa scellerata trattativa tra antistato e pezzi dello Stato. È una cosa che insomma mi fa sperare che veramente forse siamo sulla via giusta per quanto riguarda la giustizia e la verità su Via D'Amelio. Sono da anni che io ad alta voce sostengo questa tesi e all'inizio venivo anche preso quasi per pazzo quando continuavo ad accusare anche uomini delle istituzioni di avere portato avanti questa trattativa e poi coperto questa trattativa, perché la cosa tragica è non solo che questa trattativa ci sia stata e che Paolo Borsellino sia stato ucciso per questo, ma per poi che il fatto che poi per 20 anni ci sia stata una congiura del silenzio per cui questa trattativa è stata negata anche da personaggi delle istituzioni che invece questa trattativa conoscevano, a questa trattativa in qualche maniera avevano partecipato. Mm. E questo mentre si continuavano a pagare le cambiali di questa trattativa, che erano state contratte nel corso di questa trattativa, come lo smantellamento del 41 bis, il fatto che personaggi affiliati alla mafia fosse stato per loro annullato il 41 bis, fosse stata vanificata quell'azione che aveva portato subito dopo l'assassinio di Paolo nelle carceri di Pianosa e nelle carceri della Sinara il gota della mafia e che poteva rappresentare finalmente una svolta da parte nella lotta dello Stato nei confronti della mafia. Poi nel corso degli anni questo, la legislazione sui pentiti, sui collaboratori di giustizia voluti da Paolo e da Giovanni, questa era stata man mano vanificata e io penso proprio per pagare le cambiali di questa trattativa.